Lo staff della sicurezza lo chiama Mechanic e lui è un vero manovratore. Per tutti è MBZ, per gli arabi è l'uomo più potente. Due uomini, due profili. Benvenuti a una nuova puntata. Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci. Making peace with the Palestinians, with for Israel, and also making peace with the Arab countries is a gesture that Israel has been willing to take. Mohammed bin Zayed could soon emerge as a key player in bringing down tensions in the region. Welcome back to our place of work. Buona giornata e ben ritrovati, gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori. Questo è Nessun Luogo Lontano, il vostro quotidiano osservatorio su tutto ciò che accade al di fuori dei confini italiani. La squadra: Antonio Tali, Ilaria Sesana, Giulia Cannizzaro, Valentina Ternullo e Valeria Bernardi, che è in console. I numeri 349-238-6666 vale per SMS e WhatsApp. Twitter, Nessun Luogo 24, il vero mio account che è Giampaz. E infine Facebook, Nessun Luogo Lontano trattino Radio 24. Questi sono i 3-4 modi per raggiungerci, per mettersi in contatto con noi, per porre domande e commentare. È una puntata un po' sui generis questa di Nessun Luogo Lontano, ve lo anticipo. Oggi cercheremo di fare quello che i criminologi chiamano profiling. Lungi da noi addossare responsabilità criminali ai due personaggi di altissimo calibro che vi racconteremo. Diciamo che sono personaggi che hanno iniziato a comparire sui media in maniera più massiccia negli ultimi settimane, negli ultimi mesi, ma sono i veri manovratori di una serie di politiche e anche di sgrammaticature della politica internazionale che ha avuto impatti giganteschi nei recenti mesi, non da ultimo il piano per la pace di Trump, di cui vi ho dato conto ieri. Da una parte parleremo e cercheremo di tratteggiare Jared Kushner, dall'altra parte Mohammed bin Zayed, da un lato il numero due vero della Casa Bianca e dall'altro quello che è il principe ereditario degli Emirati Arabi Uniti, ma è sostanzialmente il reggente de facto di questo piccolo, ricchissimo e potentissimo paese che si sta ormai non soltanto candidando, ormai è acclamata la cosa, è un vero attore importantissimo in tante crisi, non ultima la crisi libica. Allora, lo ripeto, 349-238-6666, Twitter, Nessun Luogo 24, Giampaz, Nessun Luogo è Lontano, trattino Radio 24, per Facebook. Come ogni giorno, la prima cosa che facciamo è misurare la temperatura. Che cosa vuol dire misurare la temperatura del nostro termometro internazionale? Tutta la squadra di Nessun Luogo, lo sapete, segue costantemente alcuni dossier fondamentali. Alcuni di questi li abbiamo per il momento abbandonati, complice le altissime tensioni nel Medio Oriente allargato. Però quest'oggi una notizia che arriva dall'India ci fa tornare indietro a quella storia che vi raccontammo di quel emendamento alla Costituzione indiana e quel strano procedimento legislativo che avrebbe agevolato le minoranze musulmane che fuggivano dai paesi vicini nell'ottenimento della cittadinanza in India. Che cosa è accaduto a Nuova Delhi? Molto semplicemente, ma senza banalizzare l'evento, purtroppo nella sua drammaticità, se andate a vedere le foto è incredibile. La foto racconta questo: di un uomo armato, vestito di scuro, dietro di lui ci sono i poliziotti che dovevano garantire l'ordine pubblico. L'uomo spara a chi? A dei manifestanti che appunto stavano inscenando una protesta contro l'emendamento sulla cittadinanza. L'aggressore è un ragazzo di 19 anni, per fortuna il bilancio di questo tentativo di mattanza è finito con un bilancio lieve, uno studente è stato ferito. E il tutto avveniva durante anche, come dire, una liturgia, un cerimoniale piuttosto significativo, perché gli studenti stavano marciando vicino all'università di Jamia Millia Islamia e andavano verso il memoriale di Mahatma Gandhi, e la marcia era stata organizzata proprio in coincidenza con l'anniversario della morte di Gandhi. Ripeto, la foto diffusa dall'agenzia Reuters è eclatante nella sua, come dire, compostezza nel restituire la drammaticità di quell'evento. Alcuni testimoni, sempre secondo le agenzie, riferiscono che prima di esplodere alcuni colpi di arma da fuoco, il ragazzo, il 19enne, bardato di scuro, avrebbe urlato slogan appunto contro quella manifestazione. Naturalmente torneremo su questo dossier, perché la politica indiana, pur apparentemente distante, ha tanti, tanti motivi di interesse, e vi annuncio fin da ora che torneremo anche a parlare della questione Kashmir, che è sparita totalmente dai radar dei media, ma sapete che quotidianamente cerchiamo anche di fare uno sforzo in questo senso. Così come, complice la crisi libica e tutte le altre crisi o proposte, come quella del piano di pace di Trump, ne abbiamo parlato ieri, che potrebbe portare a un'altra crisi, perché domani è il giorno della rabbia per i palestinesi. Certamente non so come la pensate voi, ma il primo risultato concreto è che Hamas, Fatah e la Jihad Islamica si sono riuniti in qualche modo in quello che è una comunanza di partecipazione alla manifestazione di domani, che potrebbe essere violenta, anche se a ben vedere ultimamente, ma come raccontavamo, no, la stanchezza di buona parte della società civile palestinese potrebbe anche risolversi, e lo speriamo, in proclami, ma in nessuna violenza. Intanto, giustamente, la mia redazione mi segnala che è il caso di segnalarvi che in questo programma non mandiamo in onda i WhatsApp audio, quindi vi prego di esercitare le vostre abilità di scrittura al 349-238-6666, e già che ci sono, vi prego anche sintesi. Molto spesso i messaggi sono davvero interessantissimi, molto acuti, dimostrano un grandissimo interesse, però a volte sono delle analisi davvero stupefacenti e lunghe, tanto l'uno quanto l'altro, e quindi a volte mi costringono a una velocità che francamente non ho, ve lo confesso. Detto ciò, continuiamo con il nostro termometro. Dicevo, alcuni dossier sono spariti un po' dai radar. Uno è la battaglia che ormai si sta consumando da anni per la conquista di Idlib da parte delle forze di Damasco, supportate dall'aviazione russa. E non dico che non passa un giorno che non vi sia un bombardamento da parte dei russi, ma quasi. L'ultimo raid su una cittadina, un Aria, un piccolo centro a sud di Idlib, ha causato 10 morti, almeno 24 persone, tra cui un medico, un volontario di Caschi Blu dell'ONU, 3 donne e 2 bambini sono state ferite da questo attacco che, attenzione, ha colpito un ospedale da campo e una panetteria. Questo bilancio arriva dall'Osservatorio Siriano per i diritti umani, ma anche dalla protezione civile siriana. Secondo le prime fonti, l'attacco sarebbe attribuibile all'aviazione russa. E poi vi devo dare un aggiornamento anche sulla situazione libica. In questo ci aiutano anche le fonti sul terreno. Abbiamo una serie di account Twitter sui quali abbiamo riposto fiducia, sono piuttosto informati e verificati. Intanto c'è la presa di posizione del ministro degli esteri Luigi Di Maio, che ha chiamato alla formazione di una missione non meglio precisata per imporre il rispetto dell'embargo delle armi in Libia, ma questa ipotesi, come sapete, per il momento rimane ancora decisamente all'orizzonte, mentre alcune immagini sui social mostrano dei droni abbattuti a sud di Tripoli dall'esercito di Sarraj, dalle milizie dovrei dire di Sarraj, droni di fabbricazione russa, mentre sempre i social russi danno notizia della morte del mercenario Vladimir Skopinov, che sarebbe stato ucciso appunto in Libia in questo mese. Alcune piattaforme russe stanno riportando la morte, mentre è datata qualche ora fa una nuova offensiva, soprattutto aerea, e qua con supporto evidentemente emiratino, come ripetiamo da parecchi giorni, dell'esercito di liberazione libico guidato dal generale Haftar, sempre a sud di Tripoli, ma per il momento Tripoli non è ancora nel mirino di Haftar. Detto ciò, stiamo parlando di Libia, giù tutto come sempre. Bengasi al momento ha 14 giorni di capacità di stoccaggio di benzina, 7 giorni di gasolio e 7 giorni di GPL. Tobruk ha un giorno di capacità di stoccaggio di benzina, 2 giorni di gasolio, 2 giorni di GPL, mentre Sabah non ha capacità di stoccaggio della benzina, di GPL e 10 giorni per il gasolio. Che l'arma di Haftar si stia spuntando e consumando? (349) 238-6666, arrivano già i primi commenti e le prime domande. Vi anticipavo che in questa puntata viaggeremo dai paesi del Golfo a Washington, ma scopriremo che a volte alcuni dossier, alcune agende dei due personaggi che racconteremo si sono intrecciate in tanti campi e in tanti quadranti. Fatemi leggere un paio di messaggi. C'è un ascoltatore che mi dice, perché fra l'altro con un certo sarcasmo, caro giornalista, perché non ci racconta l'incontro a Camp David tra Bill Clinton, Ehud Barak, Yasser Arafat, presente il segretario di Stato americano Madeleine Albright circa 20 anni fa. Caro ascoltatore, gentile ascoltatore, proprio ieri dicevo che se dovessimo, cosa che mi rendo conto che è un limite, però ricapitolare tutta la storia del conflitto israelo-palestinese, non basterebbero credo 20 puntate in nessun luogo è lontano, per cui il mio invito di ieri era proprio a soffermarsi su quel piano proposto da Donald Trump. Oggi scopriremo chi è stato il vero artefice, quello che ha tessuto le trame per anni per arrivare a sfornare quelle 80 pagine o 150 a seconda di come lo stampate. Abbiamo avuto qualche problema ieri, ma dicevo, corposo dossier, corposo piano di pace che campeggiava qua sulla scrivania ieri, chi si è collegato lo ha visto e che abbiamo cercato di raccontarvi. È vero che la storia di questo conflitto aiuta a capire il presente, ma è anche vero, per ragioni proprio di, come dire, limitatezza di tempi e di analisi, per il momento, almeno per ieri, eravamo in qualche modo costretti a parlare del presente. Diego, senza i droni e i container pieni di armi degli Emirati Arabi, Haftar non avrebbe potuto avanzare nemmeno di un metro in Libia. Così, e ha ragione l'ascoltatore, l'abbiamo spesso ribadito in queste puntate in nessun luogo lontano, a dispetto di, come dire, una attrazione dei media verso la presenza della Wagner, ma non solo, si vociferava di altre due compagnie di contractor russi. È evidente che quel supporto sotterraneo, a volte non troppo, silenzioso, discreto, ma decisamente efficace, ha aiutato Haftar. Gli Emirati Arabi Uniti hanno l'esercito e l'aviazione probabilmente più potente dell'intero mondo arabo, oltre ad avere una disponibilità finanziaria davvero gigantesca. Un ascoltatore mi fa sorridere perché dice: se vuole la rimprovero perché non parla di Lawrence d'Arabia. Beh, mi aiuta in qualche modo a rispondere, ma davvero senza polemica. È l'ascoltatore che diceva: sì, è vero, bisogna recuperare anche tutta la storia del conflitto israelo-palestinese, ma ripeto, ci vorrebbero decine e decine di puntate. Oggi cerchiamo in questi giorni di stare al presente senza ogni tanto provare a voltare il capo all'indietro per capire quello che è stato. Allora partiamo con il primo dei due profili. Vi faccio sentire la sua voce. Lui è Jared Kushner, è legato in maniera indissolubile alla famiglia Trump, immagino che lo sappiate. Si è ritagliato un ruolo di spregiudicato diplomatico, ha in qualche modo introdotto alla Casa Bianca una grammatica totalmente diversa, così come già Donald Trump aveva fatto. E non ho usato il termine grammatica a caso, perché poi ha introdotto anche un lessico a cui magari non siamo esattamente abituati. Sentite. You have 5 million Palestinians who are really trapped because of bad leadership. Così, dritto per dritto, direbbe qualcuno per strada. Una cattiva leadership ha in qualche modo esaurito quella che, come dire, potrebbe essere l'analisi sulla leadership palestinese. Mentre le ore in cui si presentava il piano, in cui tutti gli occhi, le orecchie, le antenne, le parabole dei media erano puntate su Washington, su quella stretta di mano tra Donald Trump e Benjamin Netanyahu e dall'altra parte il silenzio palestinese, ecco ancora Kushner cosa diceva. A proposito della possibilità che i palestinesi accettassero quel piano, sentite. The Palestinian leadership have to ask themselves a question. Do they want to have a state? Do they want to have a better life? If they do, we have created a framework for them to have it and we're going to treat them in a very respectful manner. È molto semplice, ripeto, anche nel lessico, no? Se i palestinesi vogliono la pace, abbiamo trovato un framework, una cornice all'interno della quale provare a dialogare, che davvero li tratta in una maniera buona, in una maniera confortevole, umana, come forse probabilmente nelle sue dichiarazioni, nel sottotesto si potrebbe leggere, non era stato fatto dalle amministrazioni statunitensi fino a adesso. Quindi questa, diciamo, è la sua provocazione. I palestinesi vogliono uno Stato? Se lo vogliono, stiamo offrendo un'opportunità. E se non lo vogliono, sentite Kushner come si esprime. If they don't, then they're going to screw up another opportunity like they've screwed up every other opportunity that they've ever had in their existence. Se non la vogliono, stanno buttando via l'ennesima opportunità come hanno sempre fatto. Un recente articolo di Vanity Fair, peraltro, riportava alcune sue dichiarazioni non particolarmente edificanti e di ammirazione verso la leadership palestinese. Ennesima gaffe, o ripeto, il tentativo ormai sdoganato di introdurre un linguaggio diverso nella politica internazionale e anche appunto una grammatica differente. Cerchiamo di capire che ruolo gioca Kushner, che rapporti ha con Donald Trump, e lo facciamo con un attento osservatore e narratore delle vicende della Casa Bianca. Andrew Spannaus, giornalista, analista americano, lo ricordo, sei tra i suoi tanti libri, per Il Profetico, perché vince Trump. Andrew, ben ritrovato a Nessun Luogo Lontano. Grazie, buongiorno a tutti. Allora Andrew, io ho provato a riassumere questa figura che è emersa sui media solo recentemente. Il Time 2 settimane fa gli dedicava una copertina e 6 pagine, andando anche a cercare una serie di aneddoti che poi, se avremo tempo, cercherò di riferirvi. Una cosa innegabile, che prima di uscire alla luce dei riflettori, Jared Kushner tesseva amicizie con Mohammed bin Salman, con Netanyahu, con la Russia. Che cosa ci dice questo aspetto, questa sua, come dire, questa sua ipertrofia di socialità a livello internazionale, mettiamola così? Jared Kushner dall'inizio dell'amministrazione, anzi da prima ancora delle elezioni, si è presentato come un power broker, cioè una persona che poteva avere molta influenza nella Casa Bianca di Trump, sposato con la figlia, sì. E aspirante diplomatico, anche se non ha nessuna esperienza di diplomatico, pur avendo comunque una laurea in government, quindi in governo, istituzioni pubbliche, sì. Da Harvard. No? Però si è presentato in questo modo e ha deciso subito, ha chiesto certi dossier quando è iniziata l'amministrazione Trump, e ha deciso di provare a fare qualcosa di diverso. Nel Medio Oriente, dove lui, essendo di famiglia ebrea ortodossa, ha un forte legame anche di famiglia amico di Netanyahu, quindi le alleanze che lui ha cominciato a diciamo, non dire tessere perché c'erano già, sì. Ma cercare di rafforzare e sfruttare, sono quelli degli alleati, ecco, gli alleati diciamo tradizionali degli ultimi anni, Israele e l'Arabia Saudita. Sì. Il racconto di Andrew Spannaus, giornalista, analista statunitense, oramai da un po' in Italia, ma che continua a buttare l'occhio al di là dell'oceano, intanto mette un primo tassello, diciamo, non erano relazioni del tutto nuove, è stato bravo e talentuoso nel cementificarle, solidificarle, insomma, chiamatelo come volete, questo processo di implementazione, di arricchimento di relazioni già esistenti. Prima di andare avanti, Andrew, abbiamo provato brevemente a fotografare questa figura, lo ripeto ancora una volta, per molti eminenza grigia, fino a quando appunto anche il Time ha deciso di metterlo in copertina. Dalle strade discrete di Livingston, uno dei sobborghi più ricchi del New Jersey, al grattacielo al numero 666 di Fifth Avenue, affacciato sulle mille luci di Manhattan, fino al cuore della Casa Bianca, dove il suo ufficio è il più vicino alla sala ovale del Presidente degli Stati Uniti. Ecco la parabola di Jared Kushner, genero di Donald Trump e suo consigliere senior. Rampollo di un'importante famiglia di costruttori, editore del settimanale New York Observer, e neanche 40 anni, Kushner è il consigliere più ascoltato del suocero, uno dei principali artefici della sua strategia social durante la campagna per le presidenziali e, si dice, il personaggio dell'amministrazione Trump che ha stravolto le regole non scritte della politica estera americana. Jared Kushner è al centro di una complessa rete di rapporti personali che risalgono a ben prima del suo ingresso alla Casa Bianca. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu racconta di conoscerlo da quando era bambino, mentre il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman scambia con lui messaggi WhatsApp di continuo. Per i suoi detrattori è solo un rampollo viziato, proiettato ai vertici dal nepotismo di Trump. Per i suoi estimatori è un innovatore. Di sicuro è lui l'uomo che Trump ha incaricato di alcuni dei dossier più delicati, dall'accordo sul Medio Oriente fino ai controversi rapporti con alcuni oligarchi russi. Ex democratico pentito, discendente di sopravvissuti alla Shoah, Kushner non vede alcuna contraddizione tra il suo vissuto e le politiche trumpiane. E dall'ufficio alla Casa Bianca, la sua rete si allarga ormai a tutto il mondo. Questo è il ritratto di Kushner. È interessante il pezzo sul Time, lo dicevo, Brian Bennett ha firmato una lunga intervista e un incontro in quello che è l'ufficio, fra l'altro, proprio di Kushner, che è vicinissimo alla sala da pranzo nella Casa Bianca, che a ben vedere, e gli analisti e gli osservatori lo sanno, è un luogo dove Trump prende parecchie decisioni, è molto, come dire, utilizzata da parte di Donald Trump. C'è un passaggio che mi ha colpito, e mi rivolgo a Andrew Spannaus, analista, giornalista statunitense. Una delle cose che devi tenere in mente quando lavori per il presidente Trump, dice Kushner, è che non sei tu a fare le onde, è lui che le fa, a te non resta che surfare. Ho trovato un'immagine veramente icastica, plastica questa. Significa che Andrew Kushner, come dire, è bravo anche nell'assecondare l'irruenza di Trump, i suoi tweet indiavolati, i suoi cambi di fronte, di idee, eccetera. Però così sembra quasi sminuire, no, la sua portata, la sua valenza, o mi sbaglio? Beh, in questo caso, soprattutto nel caso Medio Oriente, vediamo che Kushner riflette molto, e nel pezzo che avete fatto sentire di lui, riflette molto il linguaggio e il modo di Trump, cioè Trump arriva ed è irruente, cambia completamente il modo di parlare di politica, anche di diplomazia, va e dice questa è la situazione reale, sì, vi piaccia o non vi piaccia, no, adesso io vi offro questa via di uscita. Kushner ha fatto esattamente questo con il pezzo che abbiamo sentito. Poi sicuramente Kushner pensa e ha voluto avere un ruolo molto forte, è stato suo staff a preparare buona parte di questo piano, però non ha avuto tutto quello che voleva. Kushner pare non voleva proporlo proprio in questo momento per non sembrare un intervento nella campagna elettorale in Israele, sì, però alcune persone intorno a Trump invece hanno convinto il presidente a farlo, sì. Quindi per questo Kushner per esempio ha organizzato l'incontro con Gantz, sì, cioè, certo, il giorno prima. Quindi e quella è stata, Andrew, perdonami se ti interrompo, sì, quella è stata una trovata notevole, perché è riuscito Kushner a, come dire, istituzionalizzare una cosa piuttosto strana per la diplomazia, no? Cioè tu hai contendenti a guidare Israele, ne hai due, li inviti tutti e due, è notevole, no? È un po', dal punto di vista della diplomazia è un po' sgrammaticata la cosa, perché pur governo ad interim è Benjamin Netanyahu quello che si doveva chiamare. Sì. Beh, con tutte queste elezioni che si susseguono, evidentemente prende sul serio il fatto che non c'è un governo stabile in Israele. Certo. Però se lo guardiamo poi dal punto di vista del piano di pace, che non dovrebbe essere il piano Netanyahu-Gantz, dovrebbe essere il piano Israele-Palestina. Sì. Quello che manca è la parte di Palestina. Certo. No? Quindi sì, il problema di questo metodo, cioè che per i sostenitori di Trump è ottimo perché si scardinano certi presupposti sbagliati, cioè l'idea che si possa avere il ritorno dei palestinesi in Israele, cioè certe cose che secondo loro non succederanno mai, quindi sì, tanto vale dire no, questa è la realtà, certo, cambiamo. Il problema è che fanno degli assunti che l'altra parte farà molto fatica ad accettare, per esempio che questa proposta rappresenti uno Stato per i palestinesi, veramente, uno Stato che non è contiguo a dei territori che sono separati e la sicurezza intorno è tutta di Israele. È difficile chiamarlo veramente uno Stato. Assolutamente, proprio ieri, come dire, da questi stessi microfoni sottolineavamo queste lacune, queste, e come se mancassero alcuni tratti fondanti di ogni Stato moderno, e fa bene Andrew Spannaus a sottolinearlo nuovamente. Andrew, ho altre due domande molto brevissime per te, ti proporrei di andare a sentire le borse, vediamo come vanno, e poi torniamo a parlare di questa figura, lo ripeto, per molti sconosciuta, ma molto, molto vicina al presidente Donald Trump, Kushner. Nessun luogo è lontano. Ancora buona giornata e ben ritrovati, gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori. Due pagine oggi a Nessun Luogo Lontano, meglio dovrei dire due ritratti, due fotografie, due profili. Da un lato il numero due della Casa Bianca, quello che ha sgrammaticato, ribaltato anche il modo di tessere la diplomazia internazionale. Non faccio altro che facilitare l'agenda del presidente Donald Trump, così a Brian Bennett, cronista del Time, Jared Kushner si è raccontato, e in questo modo il giornalista del Time lo ha sintetizzato. Tra poco con Andrew Spannaus, analista, giornalista, penna che è riuscita a prevedere, diciamo, in tempi non sospetti il valore, il peso di Donald Trump, torneremo su due ultimi punti. Fatemi andare sui vostri messaggi brevemente, che sono arrivati al 349-238-6666. Luciano, ogni tanto non si potrebbero sentire le opinioni di analisti di destra, non riesco bene a capire cosa intende analisti di destra quando raccontiamo la politica internazionale. Molto spesso ospitiamo analisti di think tank che per la maggior parte delle volte sono assolutamente neutrali quando sono schierati, come nel caso di think tank turchi che abbiamo ospitato anche in passato, lo diciamo, ambienti vicini agli ambienti governativi, eccetera. C'è chi mi rimprovera di non avere mai tempo per raccontare le vicende palestinesi, però io rammento all'ascoltatore, e dai podcast lo può verificare, che molto spesso abbiamo dato voce proprio ai palestinesi, ad analisti palestinesi. Io stesso ho lavorato per 3 settimane di seguito per realizzare un documentario a Hebron, quindi non c'è da parte mia assolutamente alcuna censura. E proprio ieri davamo non voce nel senso fisico del termine, ma vi davamo conto di reazioni da noi prese in territorio palestinese, in Cisgiordania. L'ultimo messaggio, poi torno da Andrew Spannaus. Trump che affronta il problema palestinese, 2 punti, un elefante in cristalleria con gli occhi bendati da Netanyahu, neanche nei fantasy. Così Maurizio cerca di inquadrare quella che a suo modo di vedere è, come dire, un certo impaccio nella politica estera, in particolare nel vicino Medio Oriente, nel vicino Oriente, come mi giustamente correggeva un'ascoltatrice ieri, di Donald Trump. Torniamo a Andrew Spannaus. Allora, c'è anche un problema. Per un certo periodo Kushner aveva rapporti piuttosto vicini anche con alcuni oligarchi russi, e come tanti, innovatori della politica estera americana, si è lasciato andare alcune leggerezze, l'uso del telefono personale, non quello, come dire, criptato e protetto dai servizi, l'utilizzo magari di mail, insomma una certa leggerezza, no, nel tessere le reti di cui dicevamo prima. Che cosa ci racconta questo del personaggio Kushner? Sicuramente testimonia la sua mancanza di esperienza in questo mondo, che sia positivo che negativo, no? L'innovatore, perché arriva in una situazione dove vuole buttare a monte le convenzioni della politica, che secondo lui e anche secondo il suo boss, sì, secondo Donald Trump, non funzionano, no? Sì. Quindi si arriva, e la questione della Russia è molto chiara. Qui l'abbiamo visto anche con Michael Flynn, il primo consigliere per la sicurezza nazionale americano. Cioè Kushner, come Flynn, hanno parlato con i russi e hanno detto: guardate che qui se vince Trump le cose cambiano. Mm-hmm. Poi qualcuno si è indispettito tantissimo per questa cosa qui. Mueller dice: terribile. Io dico: beh, questo non è anormale, cioè che prima di un'elezione uno prende dei contatti, certo, esistono queste cose, ma certo. Bisogna saperlo fare anche con un po' di competenza, e questo, sì, sicuramente in questo non è stato molto, molto attento. Sì. Alla fine, però, questa è la vera domanda chiave, Andrew, e poi ti lascio al tuo lavoro. Questa sgrammaticatura, raccogliamo con questo termine tutte queste incertezze, questi piccoli scivoloni è un bello simbolo, devo dire. Comunque, alla fine sono efficaci o no? Perché la domanda vera è questa: la diplomazia ha come obiettivo l'efficacia, non l'eleganza, no? È inutile grandi rituali, ma se io alla fine metto giù un piano per Palestina e Israele che funziona, sono stato dannatamente bravo, anche se ho alzato il telefono che non dovevo, usato la mail che non dovevo. Secondo te è efficace il metodo, chiamiamolo Trump-Kushner, via? Secondo me ha un'efficacia limitata, e questa efficacia dipende dal contesto in cui viene utilizzato. Io questo lo dico dall'inizio, che il metodo Trump di negoziare, cioè di prendere posizioni forti, fare minacce e a volte anche prendere azioni, abbiamo visto per esempio soprattutto in economia con i dazi, porta a casa qualche risultato. Questo è fuori, sì, di dubbio. Con, sì, il Messico, col Canada, qualcosa ha portato a casa. Certo. Con la Cina si può discutere di quanto sarà efficace, ma qualcosa ha fatto, semplicemente, sì, mettendo i dazi e poi togliendoli, sì, o anzi promettendo di toglierli forse in futuro. Quindi, sì, insomma, qualcosa ha ottenuto. In Medio Oriente io sono sempre stato dell'idea che la situazione è molto più complicata e non risponde a questo metodo in modo così facile. Sì. E lo vediamo con l'Iran, con l'uccisione di Soleimani. Molti dicono, cioè i sostenitori di Trump o chi cerca qualcosa di positivo, dicono: beh, è stato un successo tattico. Io concordo, nel senso, ha messo l'Iran in un angolo, sì, l'Iran non ha potuto rispondere, no, sì, veramente a tono, anche se sta uscendo in questi giorni che di americani feriti ce ne sono, sì, ce ne sono decine. Sì. No. Però qual è anche una situazione, se guardato a lungo termine, diciamo, beh, l'ha creato un po' Trump da solo, però, ritirandosi dall'accordo. L'ha creato dando voce e molto peso a Netanyahu soprattutto. Quindi a alla lunga è efficace, non mi sembra che alla lunga abbia migliorato, portato più stabilità in quella zona del mondo. Certo. La stabilità non è tutto se uno vuole appunto scardinare un po' i giochi, però in questo caso si approfondisce in un certo senso il divario. Sì. Le onde, quelle che provoca Trump, quelle che surfa Jared Kushner, nelle parole di Andrew Spannaus, lo ricordo, giornalista, analista statunitense, lui che scrisse Perché vince Trump, Andrew al volo. Si avvicina novembre 2020, stai preparando un altro libro evidentemente, che sarà Perché rivince Trump. Non ho ancora deciso il titolo, vedremo. Ah, quindi lo stai scrivendo, attenzione, ed è sulla vittoria di Trump, questo lo puoi dire. No, perché una volta che ho il titolo posso scrivere il libro, certo. Devo decidere ancora chi vincerà. È giustissimo, quando l'hai deciso, ti prego, ti ospitiamo, diccelo in anteprima, insomma ci fa piacere. Grazie mille, Andrew Spannaus, buona giornata, grazie. Buon lavoro. Tra poco andremo nei paesi del Golfo, andremo negli Emirati Arabi Uniti per una figura, Mohammed bin Zayed, che ha dei tratti di continuità in realtà piuttosto rarefatti in alcuni casi con Jared Kushner, decisamente in alcuni casi, come dire, i quadranti di cui si sono occupati si sono intrecciati, si sono sovrapposti. Tra poco vi presento il prossimo ospite, prima fatemi leggere un po' di messaggi. 349-238-6666. Certa gestione familiare e familistica richiama l'era dei Kennedy, ma il mondo bipolare era molto più semplice da interpretare, e poi avevano alle spalle i Kissinger, così un ascoltatore che poi commenta ulteriormente: se trasformare la diplomazia in forza bruta è innovare, la guardia pretoriana ha innovato il processo di scelta degli imperatori romani. Sul conflitto israelo-palestinese, un altro ascoltatore: forse per risolvere una volta per tutte questo conflitto ci vorrebbe la minaccia costante di un nemico a loro comune, ma chi potrebbe essere, si chiede retoricamente. Secondo me, secondo il mio modesto parere, un altro ascoltatore, gli americani in genere molto spesso affrontano i problemi di politica estera adottando il loro metro di misura, con poca propensione a entrare nell'ottica dei paesi con cui hanno a che fare. Su questo sono abbastanza d'accordo, molto spesso c'è una visione manichea, ma questo non soltanto in politica estera, anche sul terreno. Per esempio, tutti gli sforzi di addestramento di truppe di cui soldati, cui miliziani sono di cultura diversissima. Ricordo scene piuttosto emblematiche, per esempio in Afghanistan, in cui mujahideen o comunque combattenti di lungo corso guardavano gli istruttori occidentali dicendo loro: tu insegni molto bene, ma ricordati che io ho combattuto tante guerre. Voltiamo pagina, andiamo agli Emirati Arabi Uniti. Lo facciamo con la voce e l'esperienza di Cinzia Bianco, European Council of Foreign Relations. Bianco, buongiorno, ben ritrovata qui nel suo luogo lontano. Buongiorno a voi, grazie. Allora, vediamo se in un minuto riusciamo a rispondere alla prima domanda. Questa dovrebbe essere l'ultima domanda di un'analisi, di un'intervista, di una discussione, ma abbiamo deciso di fargliela per prima. Mohammed bin Zayed, amico di Trump, nemico dell'Iran, odia i fratelli musulmani, poco conosciuto dal grande pubblico, poco presente ai grandi consessi internazionali, ricchissimo, preparato, abile, motivato, sa anche pilotare gli elicotteri. A cosa ambisce? In 20 secondi. È molto semplice, ci vogliono meno di 20 secondi. Sì. Ambisce ad un'egemonia regionale veramente senza precedenti. Erano 10, direi. Perfetto, così andiamo in orario svizzero alla viabilità tutta italiana, poi torno da lei, Bianco. Promo 24. Eolo, internet a banda ultralarga, porta connettività fino a un giga simmetrico anche alle imprese nella provincia italiana. Eolo Azienda è la connettività ultraveloce con soluzioni progettate su misura per la tua impresa, anche se si trova nei nostri comuni più piccoli. Eolo Azienda ti permetterà di navigare fino a un giga, attivare il servizio in soli 5 giorni e di ricevere sempre un servizio di assistenza immediata. Un team Eolo dedicato alla tua azienda, con una risposta telefonica garantita in 20 secondi. Per scoprire le offerte Eolo Azienda, chiama il numero verde 800 939 939 oppure visita il sito azienda.eolo.it. Nessun luogo è lontano. Mohammed bin Zayed Al Nahyan, 58 anni, principe ereditario di Abu Dhabi, lo stato principale della Federazione degli Emirati Arabi Uniti, militare di formazione, pilota di elicotteri, astuto diplomatico e l'attore al momento principale della crisi libica. Sostiene con aiuti e forniture militari il generale Haftar. Lo fa senza troppo clamore, così come con altrettanta sobrietà diserta i principali meeting internazionali, ma tesse le sue tele diplomatiche. È il reggente de facto degli Emirati. Molto vicino a Donald Trump, ha due nemici fondamentali, l'Iran e il fondamentalismo e terrorismo islamico. Vanta l'esercito più potente del mondo arabo. Ha creato un filo diretto con Washington, che gli ha permesso di accedere ad armi e tecnologie di assoluto livello. Ad Abu Dhabi ama stupire i suoi ospiti con cerimoniali a volte lussuosi ed altri tempi, e spesso sfoggiare le sue doti da pilota di elicottero. È un one-man show a capo di un emirato di 9 milioni di abitanti, ma con una ricchezza impressionante. Petrolio, gas naturale e asset finanziari sono la base di un piccolo territorio, ma cruciale da parecchi anni. Così come il suo reggente de facto. Questo è il profilo, la fotografia, se preferite, di questo nuovo attore, nuovo per chi non segue tantissimo le vicende del Golfo, nuovo per chi anche chi si interessa alle vicende del Mediterraneo, ha trovato a un certo punto un coniglio dal cilindro, scusate l'espressione un po' prosaica, ma insomma, da un luogo apparentemente lontano il generale Haftar si trova un formidabile alleato. Cinzia Bianco, analista, European Council of Foreign Relations, abbiamo elencato un po' le armi che mette in campo Mohammed bin Salman, sì, buonasera. Mohammed bin Zayed, fra l'altro soprannominato MBZ, appunto per distinguerlo da MBS, Mohammed bin Salman. Quale fra queste armi è, secondo lei, la più affilata e quella che è risultata più vincente fino a questo momento? Io direi che in assoluto la sua arma più vincente è la sua capacità di pensiero strategico. È questo che gli dà un passo diverso, perché diciamo che le enormi disponibilità finanziarie, che sono un altro strumento formidabile, sì, ovviamente, sono a disposizione anche di altri regnanti nel Golfo, ma non sono necessariamente utilizzati con la stessa strategia e la stessa capacità, appunto, di pensiero a lungo periodo. Sì. Allora, lui, fra l'altro, per meglio impiegare in maniera efficace dietro la strategia a cui lei faceva riferimento le enormi risorse finanziarie, è riuscito negli anni a convincere gli Stati Uniti a comprare, farsi vendere armamenti di altissimo livello, anche di livello tecnologico, con la promessa e il patto suggellato con varie amministrazioni. Con Obama era un po' meno solido il rapporto, che era un solido alleato assolutamente affidabile. In un'intervista al New York Times Magazine, c'è un profilo molto lungo e molto bello, molto interessante, Mohammed bin Zayed dice che il mondo arabo non è pronto per la democrazia, perché se ci fossero elezioni libere, gli islamisti le vincerebbero tutte. Cos'è, una estremismofobia, oppure l'area del Golfo ancora può partorire spinte jihadiste e lui giustamente ha paura e quindi utilizza il pugno di ferro? Allora, innanzitutto una precisazione, non sì, è una intervista, perché Mohammed bin Zayed non rilascia interviste, è un estratto di un Wikileaks, quindi uno di quei di quelle comunicazioni diplomatiche che poi sono state diffuse, sì, da Wikileaks quando vi è riuscita ad avere accesso. E questa è una distinzione importante, perché dice tanto sull'uomo che determinate, diciamo, a porte chiuse in contesti di fiducia, in particolar modo con gli interlocutori statunitensi, magari si esprime in un determinato modo, mentre in pubblico è molto molto più attento. E la seconda distinzione molto molto importante è che il mettere in uno stesso calderone, appunto, i gruppi jihadisti con la fratellanza musulmana è una delle, diciamo, strategie di comunicazione politica più importanti di Mohammed bin Zayed, ma è del tutto inaccurato, perché lui la sua preoccupazione non è, appunto, che i jihadisti vincano le elezioni, perché chiaramente i jihadisti non vanno ad elezioni, sì, cioè se vanno al seggio ci vanno con altre intenzioni, diciamo, insomma. Esatto, esatto, perché la fratellanza musulmana vinca le elezioni, sì, ed è una paura del tutto, diciamo, fondata, perché in tutti quei esempi in cui ci sono state effettivamente delle elezioni e ci sono stati dei gruppi politici che si riconoscono anche più o meno vagamente nell'ideologia della fratellanza musulmana, questi hanno ottenuto dei risultati molto importanti. Sì. Allora, intanto arrivano un po' di domande interessanti al 349-238-6666 e una fa riferimento a un altro paese dell'area che nelle ultime settimane abbiamo sottovalutato perché c'è stato un po' uno stravolgimento in Oman. L'ascoltatore o ascoltatrice dice: come si sta comportando il nuovo CEO dell'Oman, insomma terminologia totalmente aziendale, da chi è etero diretto, va d'accordo con il personaggio che state ora descrivendo, e fa riferimento al nuovo sultano Haitham bin Tariq Al Said, no? Sì. In Oman. Cosa si può dire di queste relazioni, se si può dire qualcosa o se è prematuro? Beh, sicuramente è una delle relazioni più importanti e più interessanti che riguarda l'Oman e che la riguarderà in futuro. Il nuovo sultano Haitham è, diciamo, una figura che ancora adesso sta venendo fuori dal guscio su tanti punti di vista, però possiamo sicuramente dire una cosa molto importante, che rispetto agli altri due candidati che avevano grandi possibilità di andare sul trono dell'Oman, lui ha dei rapporti abbastanza importanti e di lunga data con alcune delle famiglie di business, le cosiddette merchant families, che si estendono tra l'Oman e gli Emirati Arabi Uniti, quindi in particolare Dubai, e quindi ha avuto molte più occasioni di contatto con Mohammed bin Zayed rispetto al sultano precedente, con il quale invece c'era veramente un rapporto tesissimo. Per cui, ecco, ci potrebbe essere all'orizzonte un cambiamento, sebbene graduale, abbastanza interessante e rilevante. Certo, poi bisognerà vedere sullo sfondo, cioè i rapporti con il vicino Qatar, vicino geograficamente, distante per le posizioni politiche, ma avremo tempo e apriremo tutto un altro capitolo, perché poi queste due visioni si concretizzano in quadranti anche lontani dai paesi del Golfo e vi le racconteremo. Intanto grazie mille a Cinzia Bianchi, analista per European Council of Foreign Relations, esperta dei paesi del Golfo. Grazie mille Bianco, buona giornata e buon lavoro. Grazie mille, buona giornata. 349-238-6666, cosa abbiamo? L'ultimo minuto, l'ultimo minutino e mezzo forse? Allora, no, un minuto mi fa segno Valeria, è inflessibile, è un sergente di ferro, assolutamente. C'è qualcuno che dice: perché nessuno parla delle persone morte per la costruzione degli stadi mondiali del Qatar 2024? Torneremo sui paesi del Golfo, anche sul Qatar e anche su una serie di dinamiche assolutamente benefiche che li attraversano, nonostante alcune operazioni simpatia, come tra virgolette le ribattezziamo qua in redazione, alludendo e raccontando a quel tentativo di smarcarsi dalla dipendenza del petrolio, di non farsi più percepire come monarchie assolute e tirannie, insomma cercare di aprirsi al mondo. Di sicuro uno dei personaggi che vi abbiamo raccontato quest'oggi, Mohammed bin Zayed, è stato molto molto bravo a emergere, e sicuramente ne sentiremo ancora parlare, non soltanto in Libia. Dalla Libia arriva al volissimo un'agenzia che dice: UNHCR, l'agenzia per i rifugiati dell'ONU, ha sospeso le attività nella struttura di raccolta e partenza di Tripoli, il che vuol dire ragioni di sicurezza, il che vuol dire che le notizie che vi davo all'inizio di questa puntata erano non soltanto fondate, ma che, come dire, stanno dispiegando i suoi effetti anche sul dossier immigrazione e sicurezza degli operatori. Detto ciò, una parola sola. Che precede i titoli di coda, che servono a ringraziare tutta la squadra di Nessun Luogo, voi che siete stati all'ascolto. L'appuntamento è per domani, ore 16, quando di nuovo Nessun Luogo sarà lontano. Un saluto da Gianpaolo Musumeci.